Benvenuto a tutti quanti, riprendiamo la settimana anche con i rigori invernali che sono ripiombati. Ecco, siamo in compagnia questa volta di Enrico Masucci e di Francesca Rocchetti. Buttiamo gli errori qua, sì, abbondiamo. Funziona? Va? Ma forse non ce n'è neanche bisogno. Adesso lo facciamo funzionare. Allora, questa sera viene presentato il libro Guerrieri, considerazioni sull'uomo in battaglia, ed è un libro di Glenn Gray. È una collaborazione che facciamo col Museo Storico del Trentino, che è una collaborazione che facciamo da anni. Ogni tot ci troviamo, presentiamo qualche libro, viene organizzato un dibattito, eccetera. Quest'anno, con questo libro, vogliamo così aprire una discussione e una riflessione su quello che è il tema della guerra, del guerriero, anche perché poi in autunno affronteremo più da vicino e più nel dettaglio con alcune conferenze il tema della Prima Guerra Mondiale, visto che ci stiamo avvicinando, anzi siamo anche già dentro per certi versi, nel centenario. Ed è per questo anche che abbiamo messo sulla cartolina un logo che ricorda, insomma, questo periodo, questo anniversario. Ci fa piacere appunto avere qui con noi i nostri ospiti. Francesca Rocchetti leggerà alcuni passi, Masucci appunto ha curato la traduzione di questo libro, e quindi ritengo che con questa serata veramente introdurremo anche la tematica della Grande Guerra, anche se non è proprio incentrato sulla Grande Guerra questo libro. Ce lo facciamo entrare. Ecco, però ci avviciniamo piano piano a certe considerazioni. L'avevamo un po' anche visto in questo senso, ecco, questo appuntamento. Vi ricordo poi altri eventi di questa settimana. In particolare ci sarà giovedì, nel tempo della grazia, la presentazione di un libro di Nives Zaccaria e con la moderazione di Paolo Bilvalente, e venerdì, ecco, un appuntamento straordinario alle 17:30, psicoterapia manuale di tessitura del cambiamento. Si tratta di un lavoro di un'autrice locale, Miriam Gandolfi Martinelli, insieme a Max Torfer. Vi ringrazio, vi lascio le cartoline sulle sedie, oppure potete chiedere informazioni ai nostri collaboratori. E auguro ai nostri ospiti e a tutti voi una buona serata. Grazie. Grazie. Ma dunque, la Prima Guerra Mondiale non è in realtà un argomento così estraneo al libro di cui parliamo stasera, perché ma credo di poterne fare a meno, se si può, preferirei. No, preferiscono, siamo abituati un po' al. Diciamo che il riferimento alla Prima Guerra Mondiale non è né episodico né marginale rispetto a ciò di cui parleremo stasera, perché, come saprete, si parla di Prima e di Seconda Guerra Mondiale come di Seconda Guerra dei Trent'anni, in riferimento al fatto che sul piano della distruttività, del coinvolgimento, delle dimensioni, del disastro complessivo, le due guerre sono due capitoli differenti, due tempi di uno stesso grande conflitto mondiale, come fu a suo tempo la Prima Guerra dei Trent'anni. In realtà va detto che presentare un libro di guerra è comunque comodo e vantaggioso, perché la guerra è un soggetto editoriale di grandissima fortuna da sempre, da Omero, passando per tutta la modernità e per la contemporaneità. Questo è un argomento che non viene mai a noia, o meglio, che continua a richiamare terribilmente l'attenzione dei lettori, ma in generale dell'opinione pubblica, perché la guerra contiene in sé, come fa comprendere questo autore, elementi di potentissima suggestione. E non si tratta soltanto di una suggestione legata a quella che potremmo chiamare una pornografia della violenza, il gusto per il macabro, il morboso, lo scenario terribile dello scempio, che, si è detto, avremo modo anche di parlare, è un suo richiamo esercita, ma attinge le sue radici anche nel fatto che la guerra rappresenta un gigantesco enigma della storia umana, soprattutto dal punto di vista della sua permanenza, cioè della sua costanza, la costanza del suo manifestarsi nel corso storico. Questo libro è definito nel mondo anglosassone un classico filosofico sulla guerra, anche se va detto prima di questa traduzione, che è merito del Museo Storico in Trento, in Italia non se ne parlava, nessuno di fatto lo conosceva. Anzi, va detto, e ci terrei a dirlo, che quando il libro è stato tradotto ed è stato spedito a case editrici di un certo nome e prestigio nazionale, le case editrici hanno sostenuto che il libro era un prodotto di nicchia, che sicuramente non avrebbe avuto nessuna rilevanza commerciale. In realtà, da quello che stiamo notando, il libro colpisce, interessa e fa parlare, perché evoca tematiche, problemi e suggestioni che, come si diceva prima, non cessano, non tramontano. D'altra parte, ogni generazione in qualche modo ha avuto a che fare con la sua guerra, si è confrontata con questa tematica. La mia generazione direttamente no, devo dire per fortuna, ma indirettamente sì, ad esempio attraverso la guerra di Vietnam, per intenderci, che ha avuto una funzione fondativa, e qui di Vietnam si parla, sia pure direttamente, e ci terrò a tornarci. Insomma, è un genere letterario che non tramonta, perché coglie nel profondo alcuni, evoca nel profondo alcuni interrogativi fondamentali della vicenda umana e della storia umana. L'interrogazione sulla natura e sull'essenza della guerra attraversa tutta la storia della filosofia, la storia della letteratura, e come sappiamo fornisce risposte interessanti e suggestive, ma nessuna risposta definitiva, perché non è facile rispondere a questa tematica. Non ci riesce, potremmo dire modestamente, neanche il nostro autore, ma almeno ci permette di capire qual è stato lo stato del dibattito sulla guerra, almeno fino al 1959, l'anno in cui pubblica questo libro, ma ci fa capire anche, ed è questo una delle ragioni della sua originalità e pregnanza, che tipo di evocazione culturale, che tipo di suggestione culturale la guerra è in grado di produrre, secondo una logica che noi ritroviamo oggi nelle opere più recenti, nella storiografia più recente della guerra, laddove si scoprono ambiti, problemi, questioni che Glenn Gray individua già alla fine degli anni 50 e che sono poi successivamente emersi negli studi più recenti in modo allarmato e in modo anche piuttosto pregnante. Uno dei meriti di questo libro, al di là di alcuni dei meriti che anche segnaleremo, è che pone con 40 anni di anticipo alcune questioni storiografiche, filosofiche e psicologiche sulla guerra che sono emerse negli ultimi decenni soltanto grazie all'opera di studiosi come Pulfasser, il nostro Mario Smenghi, Antonio Gibelli, che hanno individuato in questo evento qualcosa che va molto oltre la dimensione politica e storica, la dimensione diplomatica, qualcosa che coinvolge nel profondo l'animo umano, per così dire. C'è un bello stravagante libro di Louis Ferdinand Céline, Viaggio al termine della notte, nel quale Céline dice che la guerra è un formidabile evocatore dell'animo umano, un formidabile evocatore delle forme dell'umano. Sta dicendo questo, sta dicendo qualcosa che qui noi troviamo declinato in mille forme, in mille dimensioni diverse, che la guerra, nel bene come nel male, al di là del giudizio politico ed etico che noi ne possiamo dare, evoca dimensioni dell'umano normalmente soffocate dalla vita normale, perché, come dice lo stesso Gray, la guerra ha la capacità di concentrare i più grandi contrasti nel tempo più breve e nello spazio più piccolo. È come se si trattasse di un punto di esperienza clamoroso, intenso, dal quale emergono modalità dell'essere umano che normalmente noi tendiamo o a soffocare o addirittura non vediamo. Si tratta dunque di un classico filosofico sulla guerra, conosciuto nel mondo anglosassone, tradotto in giapponese, in spagnolo e in tedesco, in Italia praticamente sconosciuto. Ed è un lavoro nel quale l'autore compie un'operazione, più operazioni culturali. Un piano è un'operazione di tipo elaborativo, cioè quella che gli serve a lui che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale e che ne ha patito il prezzo e ne ha conosciuto l'estrema durezza, come strumento di elaborazione, cioè di digestione di un'esperienza talmente grossa, talmente intensa dal punto di vista della violenza, da non poter essere banalmente raccontata, anzi da porre un problema di dicibilità. Tutti i veterani di guerra sanno quanto sia difficile raccontare quello che hanno vissuto, senza scivolare nel clamoroso, nel mitico, o senza scivolare nel rischio di non essere creduti. Perché esiste una sproporzione, una dismisura tra la qualità e l'intensità di questa esperienza e la capacità della mente e del linguaggio di raccontare adeguatamente quello che si sta provando, quello che si è vissuto. Gray scrive questo libro, dice lui stesso all'inizio, per fare i conti con questa esperienza, perché questa esperienza gli ha lasciato dentro una cicatrice perpetua e lui ha bisogno di capire se almeno quegli eventi avessero senso. A un certo momento dice: se dovessi scoprire, sarebbe per me tragico, se dovessi scoprire che tutta questa vicenda, anche storicamente intesa, non ha avuto alcun senso. Ed è il giudizio di un filosofo, si badi bene, di uno che teme che tutta questa grande vicenda novecentesca e non solo possa risolversi in una bolla di sapone. D'altra parte, il giudizio che dà Gray sulla, a partire dalla guerra totale, cioè dalla guerra novecentesca, sull'intero corso della nostra civiltà, è un giudizio, un bilancio estremamente severo. È il bilancio di una crisi di civiltà la cui origine lui individua nel formarsi della società moderna e nell'utilizzo che della tecnica viene fatto non soltanto sul piano della guerra ma anche sul piano civile. Quindi questo libro del 1959 contiene un elemento di valutazione politica, diciamo così, storico-politica, che noi ritroviamo in questi ultimi anni proprio nell'agenda politica dei movimenti contestativi, per capirci, dei movimenti ecologisti, dei movimenti pacifisti, con un mezzo secolo di anticipo, perché già si comincia a intravedere all'epoca quali sono i punti di rottura, i punti di crisi, i piani di conflitto profondi di una civiltà che nasce su una grande promessa di felicità e che in realtà implode sul massimo di distruttività. Questo è un piano, è uno, come dire, un file che il libro apre. C'è un altro terreno poi di riflessione che viene richiamato dal titolo stesso, Guerrieri, considerazioni sull'uomo in battaglia. Si tratta di una riflessione sul combattente, cioè sulla condizione specifica di chi si trova nella condizione di guerra. Da questo punto di vista Gray sviluppa quella che un militare chiamerebbe un saggio di sociologia o psicologia militare. Che cosa vuol dire trovarsi in battaglia? Come ha scritto esplicitamente un certo John Keegan, che è il più grande storico militare novecentesco, un inglese, morto nel 2002, che fa delle riflessioni importantissime e tragicamente suggestive sulla concretezza, sulla materialità, sulla oscenità di trovarsi nel campo di battaglia. Quindi Gray descrive ciò con cui il guerriero si confronta nella pratica materiale della guerra. E poi c'è un terzo piano, forse più importante, ragionando in termini generali, che è quello della riflessione filosofica sulla guerra, che come si diceva prima, attraversa tutto l'arco della civiltà con risposte anche molto diverse. Da Eraclito fino alla filosofia più recente, tutti si sono interrogati su che cos'è questo strano evento, questa oscena passione umana per il combattimento che consiste nella negazione radicale della vita. Qui ci sono spunti di grande interesse, ma anche spunti di debolezza del libro, va detto, perché il libro va raccontato nei suoi pregi e nei suoi difetti, così come rientra tra i difetti la soluzione, la cura, la medicina che Gray individua alla fine del libro rispetto al problema storico della guerra. Vedremo più avanti quanto debole e quanto americana sia questa risposta. In ogni caso, si tratta di una riflessione molto informale, molto meditativa, dal punto di vista letterario molto semplice, di un personaggio di buona cultura, docente universitario al Colorado College, che vuole fare i conti con la propria esperienza di guerra, vuole cercare di capire da quell'esperienza che cosa si possa aggiungere al discorso sulla guerra che è stato fatto fino adesso. Chi è l'autore? L'autore è un amico di Hannah Arendt e un amico di Martin Heidegger, una delle figure filosofiche più importanti del Novecento. Anzi, è il traduttore, il curatore negli Stati Uniti dell'opera di Heidegger, quindi è una personalità di rilievo. Nella corrispondenza, nell'epistolario tra Hannah Arendt e Martin Heidegger, pubblicato in Italia nel 1975, loro sono stati anche amanti, detto di passaggio, una storia d'amore controversa e impegnativa, il nome di Gray compare moltissime volte in un pantheon di personaggi, 329 personaggi della cultura mondiale, Aristotele, Kant, Hegel, gente di questo tipo. Gray è il terzo in ordine di citazioni, quindi un personaggio importante. In realtà queste citazioni dipendono dal fatto che Gray intrattiene un rapporto umano, amicale, con i due personaggi perché sta trattando la traduzione di quest'opera. Non è un personaggio filosoficamente rilevante e d'altra parte, quando nel 1966 Hannah Arendt gli scrive l'introduzione al libro, che noi non abbiamo tradotto per molteplici ragioni, prima di tutto questa, quando gli fa questa introduzione, compila un diligente riassuntino dei problemi che Gray evoca, mostrandone l'importanza, ma censurando, trascurando, forse anche per ragioni storiche, storico-culturale, alcuni spunti fondamentali che il libro presenta. Infatti il libro è un racconto della guerra, si diceva, su più piani esperienziali, alcuni molto provocatori. Per esempio, nello spiegare quello che l'autore chiama il fascino eterno della battaglia, Gray fa ricorso ad alcune categorie filosofiche importanti e fondanti che possono anche apparire ciniche dal punto di vista della nostra moralità, ma che rivelano aspetti della nostra reazione all'esperienza di guerra indubbiamente presenti. Per farvi capire, citerò nel 2001 c'è stato l'abbattimento delle Twin Towers, se ricordate, un evento terrificante. Mi capitava proprio ieri di vedere le scene di queste persone che si buttano dal grattacielo per evitare l'orrore dell'incendio, il disastro, e mi capitava di pensare al fatto che le nostre televisioni hanno mandato in onda queste immagini migliaia e milioni di volte e che c'è stata una singolare indulgenza nel proiettare queste immagini e c'è stata una complicità effettiva degli spettatori nel guardare queste scene. Ebbene, c'è un compositore tedesco che si chiama Karl-Heinz Stockhausen che a qualche giorno dall'abbattimento delle Twin Towers ha descritto questo evento mobilitando la categoria estetica kantiana di sublime. Il crollo delle Twin Towers ha in sé qualcosa di sublime. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è dentro di noi, e il richiamo è biblico, la Bibbia parla di bramosia dell'occhio, concupiscenza dell'occhio, c'è in noi, come dice lui e spiega, l'attitudine a contemplare scene di orrore, di tragedia assoluta, nei termini di una vera e propria fruizione estetica, di un vero piacere dell'occhio, di un vero piacere estetico. Ecco, mi veniva in mente che lo scenario descritto dal compositore tedesco da Stockhausen e il riferimento di Gray sono singolarmente coessenziali. Noi proviamo nei confronti di scenari particolari di orrore, purché se ne stia a una certa distanza, un rapimento speciale, una sorta di identificazione panica con la tragedia che sta avvenendo, l'importante è che se ne sia distanziati. Dice questa cosa Kant nella Critica del Giudizio, la dice un certo Edmund Burke, un politico e un filosofo inglese del Settecento, riferendosi al fatto che di fronte a un certo tipo di spettacolo, qui si parla di spettacolo della guerra, noi non riusciamo a distogliere lo sguardo, perché quello che viene sprigionato da quello spettacolo è qualcosa di assolutamente incantante. Vorrei raccontare rapidissimamente una cosa, poi leggiamo un brano di questo. In una Super Quark del 1999, Piero Angela si descrive l'intera giornata della battaglia di Waterloo, 18 giugno 1815. E si descrivono le fasi della battaglia, la preparazione, la conclusione, la sconfitta di Napoleone, si descrive alla fine lo scenario di orrore del campo di battaglia al tramonto, al crepuscolo, con i corpi, i cadaveri, con i corpi dei feriti, i lamenti degli agonizzanti, gli sciacalli che vanno a rubare i portafogli ai soldati, e un testimone fuori campo citato letteralmente da Piero Angela dice, virgolette, eppure io restavo a guardare, cioè rimanevo a contemplare questo scenario straordinario in cui l'occhio si fonde con l'oggetto visto, può farlo perché gode della rassicurazione della distanza, ma in ogni caso rivela di quell'occhio e della mente che c'è dietro il gusto e il godimento di uno scenario apocalittico di distruzione pura. È quello che Kant chiama il sublime kantiano. Gray riprende questa teorica, che è una teoria filosofica lontanissima. Utilizza per farlo una delle ultime lettere da Stalingrado di un soldato tedesco, di un astronomo, che nel momento cruciale del disastro hitleriano sotto Stalingrado riesce comunque a contemplare la natura, a farsi trascinare e rapire da uno spettacolo che sormonta di molto le miserie umane, la guerra stessa che sta per concludere e che sta per distruggere la sua nazione. È la dimostrazione, secondo Gray, poi diremo anche qualcosa su questa lettera che pare sia un clamoroso falso, l'abbiamo scoperto recentemente. Questi sono altri episodi citati per dire che di fronte all'orrore, Burke lo chiama l'horror beauty, di fronte all'orrore noi siamo stranamente e cinicamente disposti a guardare, contemplando e partecipando simpateticamente a quello che sta accadendo dal punto di vista estetico. Intendiamoci. Questo qui non sta dicendo che la guerra è bella, che lo scempio è bello, che la distruzione, la morte, l'orrore della guerra vadano fruiti esteticamente. Sta dicendo che al di là della nostra condanna di quello che nella guerra effettivamente accade, ed in guerra accade davvero di tutto e di peggio, esiste in noi un'attitudine a guardare e a contemplare che va oltre ogni categoria etica. Perché dire questo? Perché in una riflessione sulla guerra e in una riflessione sull'umano non ha senso nascondere il fatto che la guerra esercita questo tipo di suggestione e che noi, tutti noi, in qualche modo siamo disposti a contemplarlo. Non vuol dire neanche che in ogni guerra tutti i combattenti hanno sempre e comunque goduto di questo scenario. Chi conosce i diari di guerra, le memorie di guerra della prima e della seconda guerra mondiale, sa che c'è anche dell'altro, c'è orrore puro, c'è condanna etica, c'è condanna politica, c'è disgusto per quello che accade, ma ci sono zone dell'animo e chissà, forse zone intellettuali per le quali e nelle quali questo evento, nella sua grandiosità assoluta e terribile, esercita su di noi una fascinazione insuperabile. Un esempio, è un consiglio di lettura, ma anche un riferimento contenuto nel libro, perché questo cita a destra manca, qualche volta sbaglia anche le citazioni, ma adesso non ci interessa, sì. Confonde Tolstoi, confonde opere di Shakespeare, ma non è così rilevante. È un'opera scritta in modo informale, è un diario intimo, che non ha nessuna pretesa di scientificità e al quale si può anche perdonare una imprecisione di questo tipo. Nomina frequentissimamente Ernst Jünger, che è una, come dire, è il dio supremo della estetizzazione della guerra, quello Jünger che durante la prima guerra mondiale viene ferito 14 volte, due delle quali alla testa, un proiettile gli entra nell'elmetto e lui la mattina dopo prende parte e torna all'assalto, e che racconta dell'ultima offensiva sul fronte occidentale nel marzo 1918, a proposito di prima guerra mondiale, anche lì c'era il sublime evidentemente, racconta di essere andato all'assalto in questo frastuono infernale come giovane sottotenente, camminando verso la trincea avversaria tenendo la pistola nella mano destra e un frustino di bambù nella mano sinistra, cioè in completo dispregio del rischio della vita, beandosi semplicemente di questa identificazione con il frastuono della guerra. Grande e straordinario spettacolo, insuperabile spettacolo. In un capitolo di questo libro Gray racconta precisamente questo. Sappiamo che è un pacifista tra virgolette, ma sappiamo anche che è un pacifismo non sterile, impotente e lamentoso, è un pacifismo che sa che la guerra la si può combattere soltanto se ci si sforza di approfondire e capire che cosa si scatena lì dentro, perché gli uomini, direbbe una certa Joanna Burke, inglese, amano uccidere, non tutti gli uomini, ma capita che questo avvenga. Le cronache della prima e della seconda guerra mondiale sono piene di questa suggestione. Vogliamo leggere una paginetta? Il fascino eterno, sì, grazie. Scusami se mi sono dato, ringraziamo Francesca di questa sua, di questo aiuto. Col microfono questo è meglio così? Si può alzare? No, se non lo tengo in mano. Quello più pericoloso di un'arma. Lasciammo Roma ieri mattina all'inseguimento dei tedeschi in fuga. Di nuovo in marcia, attraversammo villaggi anneriti in rovina, veicoli distrutti, cadaveri macellati di soldati tedeschi, cavalli morti e in putrefazione, ponti distrutti, nuvole di polvere che bruciavano i nostri volti e riempivano i vestiti. Più tardi vidi una luna piena solcare un cielo rannuvolato. Vidi i bombardieri tedeschi volare e la nostra antiaerea bersagliarli. Rividi tutto ciò che ero stato ed ero. Fu doloroso e magnifico al tempo stesso. Che cosa avviene quando si cade sotto l'incanto di un siffatto potente stato d'animo? Si sente dire che la ragione profonda dell'appagamento consista nel senso di personale elezione rispetto al destino degli altri. Li vediamo esposti a potenze soverchianti e godiamo della sensazione di superiorità offerta dalla nostra sicurezza. Quando non siamo direttamente coinvolti e il sentimento del sublime viene evocato in noi dall'imponenza della natura, l'io si trova in un modo o nell'altro sollevato a una sfera superiore. In quanto spettatori percepiamo una superiorità all'oggetto della contemplazione. Nel diario trovo queste parole. Questa sera ci ha regalato un magnifico tramonto sul Tirreno. Dalle finestre potevamo osservare i giardini recintati di Carano, dove i fiori sbocciavano e le bianche fluorescenze dei peschi addolcivano l'aria. Più oltre si estendevano i campi e in lontananza le montagne, Formia, Gaeta, il mare. Il sole che calava dietro le montagne illuminò una nuvola sospesa in basso sull'orizzonte. Mentre contemplavamo quello scorcio meraviglioso, l'aria della sera ci portò il rombo del cannone, costringendoci a ricordare che qualche miglio oltre l'area della quale contemplavamo erano in agguato uomini con la morte nel cuore. Guardavamo verso la terra di nessuno. Quando fece scuro, enormi tracce di fuoco apparvero sulle montagne. un'immagine arcana, ma c'erano pochi dubbi che avesse a che fare con morte e distruzione. Se posso permettermi di chiederti una... Sì. Ho trovato il brano di Junger, questo è un brano da Tempeste d'acciaio, il suo classico, 1920. Ti dispiace, grazie. Junger è vissuto fino a... Sì, e che è vissuto 100 anni, certo. Fino a 15 giorni prima della morte faceva ogni mattina una doccia gelata. Un personaggio straordinario. Forse sarebbe vissuto fino a 110, allora, se non l'avesse, se non avesse fatto le docce. Il grande momento raggiunto. La cortina di fuoco dileguò delle trincee di prima linea. Ci levammo. Con un misto di sensazioni, evocate dalla sete di sangue, dalla furia, dall'ebbrezza, ci muovemmo al passo, lentamente ma irresistibilmente verso la linea nemica. Io ero parecchio avanti al resto della compagnia, seguito da Vinche e da un veterano di un anno di nome Ache. La mia mano destra stringeva il calcio della pistola, la sinistra una bacchetta di bambù. Bollivo di una rabbia folle che si era impadronita di me e degli altri in modo incomprensibile. Una travolgente smania d'uccidere dava le ali ai miei passi. La rabbia mi faceva versare lacrime copiose. Un folle desiderio di distruzione, volteggiante sul campo di battaglia, si addensava nei cervelli, avvolgendoli in una nebbia rossa. Ci chiamavamo l'un l'altro, singhiozzando e scambiandoci frasi sconnesse. Un osservatore disinteressato avrebbe pensato che fossimo tutti persi in un delirio di felicità. In un delirio di felicità, terribile. E va detta una cosa importante, a rafforzare l'idea che c'è, che sussiste la dimensione estetica, va detto che Junger, nel caso specifico, non è un nazionalista in senso classico. È vero che ha avuto compromissioni con il regime nazista, potremmo parlarne, il personaggio non è un subalterno, però prepara la strada anche lui. Tuttavia il suo nazionalismo non è fatto di odio per il nemico, non gli interessa chi sta combattendo. A un certo punto di Tempeste d'acciaio lui dice: ciò che conta non è ciò per cui combattiamo, ciò che conta è che combattiamo. Vuol dire che è il gesto in sé che riempie la vita. Il nichilista Junger dice che il gesto violento di rottura estrema, il gesto liminare, lo sfondamento del limite della soglia dà l'unico appagamento che merita di connotare la vita, dal quale la vita merita di essere riempita. Lui non odia il nemico, vuole fare bene il suo lavoro. E d'altra parte, a proposito di lavoro, aggiungiamo che tra gli elementi, gli spunti tematici importanti e suggestivi di questo libro c'è quello della guerra come lavoro. Io non vorrei banalizzare, ma c'è una canzone dei Nomadi, che è il pilota di Hiroshima, in cui il cantante dice che il lavoro è la guerra, lavoro è la guerra. Allora, che tipo di riflessione va fatta e viene stimolata da questa lettura? Il fatto che nel Novecento la guerra perde quel residuo alone romantico, virilista, eroicista, che ne faceva una grande esperienza esistenziale, e diventa qualcosa di differente. La guerra diventa la versione cruenta del modo in cui la società sta organizzando i suoi ritmi, i suoi modi. Qualcuno dirà che la prima guerra mondiale è il mattatoio di Chicago trasferito sulle trincee del fronte occidentale. La stessa logica fordistica, qualcuno, Antonio Gibelli deve essere stato, che si esplica in fabbrica produttiva, è la logica che anima gli eserciti moderni, a cominciare dalla prima guerra mondiale, quando il lavoro viene organizzato in modo scientifico come produzione di morte. Così come nelle fabbriche si producono merci da vendere, qui si produce distruzione di morte in nome di un progetto politico e così via. Ma questa, la trasformazione della guerra in lavoro, significa anche che gli operatori della guerra diventano operai della guerra. Junger scrive anche un libro dal titolo L'operaio, 1930, in cui parla dei militi del lavoro, cioè dei soldati che in fabbrica sviluppano la stessa logica efficientistica dei soldati a fronte e viceversa. Lavoro che in qualche modo spiega anche per quale strano motivo nel Novecento il livello di distruttività e di ferocia della guerra raggiunge vertici mai visti. Perché sono state fatte queste cose terribili? Nella prima guerra mondiale non ci sono ha gli elementi di ferocia, e i tedeschi ne combinano un po' in Belgio, ma non nulla a che vedere con quello che accadrà nella seconda guerra mondiale, dove i livelli di abbruttimento e di violenza raggiungono vette insuperabili. Perché si fa questo? Perché la guerra si è trasformata in una attività sistematica e scientifica nella quale la segmentazione delle funzioni, i ruoli, sono così divisi, parcellizzati, frammentati, che ognuno ha da curare solamente la parte che gli viene dedicata. Il ferroviere che trasporta i carri bestiame pieni di ebrei, zingari e comunisti ad Auschwitz sta facendo soltanto il suo lavoro, coglie il frammento minuscolo di quell'operazione, non può dire di sentirsi responsabile. La mia responsabilità era diluita in una catena di comando vastissima. La guerra diventa cattiva non perché aumenti semplicemente la ferocia, perché il peso di questa ferocia viene diviso e frantumato in modo che non esista una responsabilità specifica. La colpa è del Führer, sì, ma il Führer è lontanissimo, io sto facendo quello che sto facendo perché mi è stato ordinato di farlo. C'è anche la questione qui del Befehlsstand, si dice in tedesco mi sembra, della responsabilità, e qui c'è una serie di riferimenti importanti. Perché facciamo quello che facciamo? Perché siamo dentro un dispositivo. Lui stesso, se ne parlava prima, questo Gray è un giovane filosofo che viene arruolato nell'intelligence americana, cioè nel controspionaggio. Sta un anno negli Stati Uniti, poi passa in Africa, quindi sale in Italia, sbarca nella Francia meridionale e poi va in Germania. Che tipo di lavoro fa? Lui, con un termine terribilmente eufemistico, i militari la chiamano ripulitura, segue le truppe americane di prima linea cercando di beccare spie, infiltrati fascisti, sabotatori. Quando prende sospetti, lui è tenuto a pestarli sonoramente perché questi debbono parlare, perché lì non stiamo giocando, stiamo facendo la seconda guerra mondiale, la guerra dei giusti contro i cattivi. E che cosa accade? Che avendo gli strumenti culturali per farlo, ma forse anche senza strumenti culturali avrebbe potuto mettere a fuoco, scopre di essere diventato cattivo, o meglio, scopre di non sentire più la colpa, o meglio, qualcosa è successo, si è fermato, si è staccata la spina. Sto fermo. Scopre di essere diventato cattivo perché sta seguendo il compito per il quale è stato addestrato, gli dispiace, si rende conto che non è quello di una volta, ma dice a un certo punto: ecco, quello che mi sta succedendo è che sto diventando un soldato, cioè sto diventando l'esecutore di un piano di controllo e di morte che ha fatto di me qualcosa di diverso da quello che ero. E qui scatta la riflessione sulla tecnica e sull'organizzazione scientifica del lavoro applicata alla guerra moderna, che pensa se stessa come un lavoro da eseguire con scrupolo secondo criteri di pura e semplice efficienza. È la tecnica che si è impadronita dell'agente, dell'attore. Hannah Arendt dirà che lo strumento ci trasforma antropologicamente, cioè trasforma il nostro modo di essere. Lo strumento costruito per uccidere trasforma me in uno strumento per uccidere. E anche da questo parte il giudizio terribile, severissimo di Gray sulla civiltà contemporanea, perché lui giudica che la parabola da noi intrapresa dal 600 in poi, conclusasi con con la Belle Époque e con queste grandi manifestazioni di potenza tecnologica, in realtà sia una parabola involutiva, cioè che si sia smarrito qualcosa di fondamentale e di umano e si sia abbracciato una logica di pura efficienza, una logica di pura manipolazione della realtà. Lui chiama questo soggettivismo, io la chiamo in questo modo, preminenza e prominenza del soggetto, traduciamo. Siamo più importanti noi di quanto sia la natura. La natura è messa lì al nostro uso e consumo, ci serve, quindi noi abbiamo il diritto di farne quello che vogliamo. Qual è il problema? Che il diritto al dominio del mondo esterno è implicitamente il diritto al dominio degli altri lì fuori, i quali vengono derubricati, vengono diminuiti nella loro umanità in nome di un progetto di distruzione che noi perseguiamo dal nostro punto di vista o dalla nostra parte. La guerra moderna disumanizza per esempio, e qua si aprirebbe un campo smisurato, chi conosce Sebald ne sa qualcosa, Storia naturale della distruzione, un libro terribile. Sono più colpevoli i soldati camilai in Vietnam, hanno ammazzato centinaia di civili in un momento a chiamarlo così impazzimento, o i bombardieri della seconda guerra mondiale? Verrebbe da dire quelli che direttamente colpiscono donne, bambini, donne incinte e così via, uscendone peraltro assolti, ma questo è un altro discorso, o i bombardieri, sono più colpevoli i bombardieri, dice lui, perché il bombardiere gode del privilegio della guerra moderna della distanza dall'oggetto che viene colpito e quindi si ritiene esonerato dal problema della colpa. C'è un capitolo apposta sulla colpa. Non ho fatto nulla che premere un pulsante, non ho fatto nulla che obbedire agli ordini, d'altra parte non so quello che sta accadendo. E raccontano le cronache che nel bombardamento di Dresda del febbraio 1945 i piloti dei bombardieri avvertivano il calore degli incendi che si verificavano in città e raccontano le cronache, sono cose terrificanti, che molte persone venivano risucchiate dalle bolle di asfalto che si aprivano per il calore nelle strade, e raccontano le cronache che il napalm, usato generosamente il fosforo bianco, che non viene soffocato dall'acqua, faceva sì che le persone, impossibilitate a buttarsi nella Sprea, mi sembra ci sia nel fiume, e non potendo usare l'acqua per eliminare queste fiamme, si scavavano delle mani e piedi, delle fosse in terra per interrarsi, perché era l'unico modo per evitare. Insomma, sono orrori che secondo lui non sono banalmente spiegabili con una efferatezza umana specifica, ma come una china che la società umana ha preso, che in quel modo si manifesta nella guerra, ma che ha modo di manifestare la sua efferatezza, la sua indifferenza, anche in altri campi della vita civile. La guerra è la versione cruenta, sanguinosa, di uno stile di rapporto con il mondo, che è uno stile di dominio, che è uno stile di violenza e di efferatezza. La riflessione sulla tecnica in questo libro è fondamentale, ci sta dicendo che ciò che noi fino a qualche decennio fa ritenevamo il punto di forza della nostra civiltà in realtà è un punto di debolezza. C'è un articolo di Albert Schweitzer nel 1922, medico, teologo e musicista, in cui il semplice Schweitzer addebita precisamente al nostro sviluppo il fatto che la società si sia imbarcata in livelli di efferatezza come questi. L'intuizione, che è un'intuizione di tutta la filosofia novecentesca, ci sia qualcosa di tremendamente sbagliato, come dice lui, nel cammino che abbiamo fatto, è un'intuizione profondissima che trova echi importanti in passi importanti della filosofia di Hannah Arendt, nella scuola di Francoforte, nello stesso Heidegger, che noi ritroviamo oggi nella critica della tecnologia da parte dei movimenti ecologisti, per esempio. Facciamo qualche letturina. Aspetta. Cominciamo da questo, aspetta. Come si fa a uscire da questo dilemma storico della guerra? Qua il problema, come sappiamo, si complica moltissimo. Noi assistiamo quotidianamente all'esplosione di nuove guerre, di violenze, i tassi di ferocia si innalzano. Come si fa a uscirne? Il problema è complesso. La risposta che lui dà, ecco, diciamo che è qualcosa che non va di questo Gray, che appare debole, è quella che è il sentire della Francesca. Grazie Francesca, scusami. Questo, guarda, il spezzare la spada, eccolo lì. Aspetta. E verrà un giorno, forse verrà un gran giorno, sì. Sta citando Nietzsche. E forse verrà un gran giorno in cui un popolo, distintosi per guerre e vittorie e per la più alta formazione di ordine e di intelligenza militare, e avvezzo a fare per queste cose i più gravi sacrifici, esclamerà volontariamente: «Noi spezziamo la spada», e distruggerà tutto il suo apparato militare fino alle sue fondamenta. Farsi inermi quando si era i più armati, per altezza di sentimento. È questo il mezzo per la vera pace, che deve sempre riposare su una pace del sentimento. Mentre la cosiddetta pace armata, quale oggi si riscontra in tutti i paesi, è la bellicosità del sentimento che non si fida né di sé né del vicino e che a metà per odio e a metà per paura non depone le armi. Meglio perire che odiare e temere, e due volte meglio perire che farsi odiare e temere. Questa deve essere un giorno anche la più alta massima di ogni società statale. Grazie. Se pensiamo che Nietzsche, del quale qualcuno ha ritenuto si trattasse di un precursore del nazismo, insomma, viene da pensare. Ma che cosa c'è di debole in questa profezia, chiamiamola così? Sulle pagine di Nietzsche può anche essere letterariamente plausibile, ma col senno di poi, noi oggi già nel 1959 potremmo dire non è così semplice, non è così facile, perché evidentemente si ritiene che l'unico modo per spezzare questa spirale terribile del conflitto tra gli uomini, del conflitto cruento e armato tra gli uomini, sia la decisione temeraria, tempestiva e repentina di uno Stato che decide di chiudere tutto, di dedicarsi ad altro. È ovvio che c'è una profonda debolezza in questa posizione. La soluzione della guerra viene affidata ad un espediente culturale e sentimentale che immagina che ci sia qualcuno da qualche parte su questo pianeta che possa si auspica una grande potenza che decida improvvisamente di chiudere questo dispendiosissimo capitolo della fabbricazione delle armi. Questo è il punto di debolezza della principale punto di debolezza del libro. Come un punto di debolezza del libro, secondo me, voglio anticiparlo, il fatto che quando questo qui si interroga sulle ragioni della guerra e sul perché di questa vicenda storica e tira fuori ogni tanto in modo molto debole anche le ragioni storiche e sociali. Per esempio, le guerre affondano le loro radici in concretissime ragioni economiche. La prima guerra mondiale nasce da scelte demenziali delle classi dirigenti, ma c'è di mezzo un conflitto economico imperiale non indifferente. E la stessa seconda guerra mondiale, che noi tendiamo a semplificare in una guerra tra buoni e cattivi, tra fascismo e antifascismo, supponiamo, meriterebbe di essere guardata sotto altre angolature per rivelare il fatto che lì si stanno giocando i destini dei pianeti, delle colonie, dei paesi, dei continenti, ed è in ballo altro rispetto al conflitto tra buoni e cattivi. Qual è la fuoriuscita da questa situazione? Non è chiarissima da quello che lui dice. Soprattutto sembra che questa guerra in qualche modo sia incistata nel corpo dell'essere, delle cose, e non si sappia mai bene come affrontarla. D'altra parte, la riflessione filosofica sulla guerra ha avuto molte risposte. Da Eraclito in poi c'è una folla incredibile di personaggi che si sono confrontati. E le risposte oscillano tra due tendenze differenti, quella che io chiamo la naturalizzazione e la storicizzazione. Storicizzazione: la guerra nasce perché concretissime ragioni storiche, economiche e politiche, Kant diceva perché i sovrani la fanno, per i loro interessi specifici. La risposta naturalistica, da Eraclito a Hobbes e ad Hegel, per esempio, in qualche modo, è che la guerra appartiene alla struttura della realtà. E Eraclito dice: Polemos è padre o madre di tutte le cose, cioè la guerra sta dentro la struttura della realtà come qualcosa di insopprimibile e di costitutivo, quindi ve la dovete tenere. D'altra parte, Hobbes afferma che la guerra è lo stato di natura, noi siamo naturalmente relazionati sulla base di una reciproca volontà di uccidere, non si scappa, quindi la necessità di un capo, di una dittatura, di un sovrano che con le buone, ma soprattutto con le cattive, risolve i contrasti e li appiani. Hegel, per il quale la guerra è l'espediente col quale si risolvono gli ingorghi storici. Quando non si riesce a risolvere un conflitto, un contenzioso, subentra la guerra, e la guerra decide il più forte, decide, come dire, dell'evoluzione della storia. Qui lui dà una risposta nell'ultima pagina, una specie di cul-de-sac, una strettoia logica nella quale, non sapendo che dire, poverino, ma io lo capisco, perché non è che le risposte sulla guerra siano state esaustive o definitive, teme che questa cosa appartenga all'essere in quanto tale, ed è una risposta debole, tanto più debole se quando pensiamo che oggi noi più che mai abbiamo bisogno di fare i conti con questa cosa terribile che è la guerra, che ha perso il fascino, la grandezza, la dimensione eroica della tensione classica cavalleresca dall'Ottocento in poi, per diventare qualcosa di assolutamente distruttivo. D'altra parte, obietterebbe un critico reazionario come Junger, è già dalla rivoluzione francese che la guerra comincia a innalzare i livelli di distruttività. Quando c'è di mezzo la salvezza nazionale, l'onore del paese, oppure l'autodifesa dall'aggressione, non si guarda in faccia a nessuno. I soldati della rivoluzione sono motivatissimi e sono pronti a qualunque tipo di violenza pur di difendere quella causa, sì, giustamente, ma da quel momento si innalza il livello, l'asticella, e il lavoro della guerra diventa un lavoro più spietato, più feroce. Come uscirne? Questa è una cosa sulla quale certamente stasera noi non ci pronunceremo. Lavoro nella guerra, ecco, 185, scusami, ci vogliamo leggere questo? Sul lavoro della guerra e sulla durezza che lui sente di aver maturato dentro di sé. Se non lo trovi ti do il libro. Aspetta un momento, 185, vediamo qual è. Ah, Immagini del nemico. Immagini del nemico, sì. Scusami se sto compaginando. So di odiare il mio lavoro in questa guerra, che la guerra stessa sta lentamente lavorando a distruggere tutto ciò che avevo gelosamente custodito come mio. Quando stanotte ho letto le parole del diario di un soldato tedesco, nelle quali diceva di aver smarrito il proprio io e la personalità nei lunghi anni di questa guerra, sono rabbrividito. Sembrava che parlasse di me. Un tempo mi sforzavo di essere mite e gentile. Adesso interrogo civili miserabili e provo vanto della mia durezza e indifferenza verso i loro lamenti. Forse il peggio che si può dire è che sto diventando un soldato. Rompemmo il vetro sulla porta e la scardinammo dall'interno. Il nazista che si era suicidato era abbandonato in un angolo morto. Una pallottola gli aveva attraversato la tempia. Era uno spettacolo crudele che non mi scosse più di tanto. Presi il suo revolver e lo lasciai lì. Trovavo che quella fosse la fine giusta e rappresentasse la soluzione del problema. In qualche modo mi sono indurito nei mesi passati. Dio del cielo, aiutami a rimanere umano. Ecco, la disfluviale è precisamente quella per rimanere umani e uscire da questa umanità. Sappiamo per esperienza che prima, soprattutto la Seconda Guerra Mondiale, hanno significato lo sfondamento di questa soglia e l'accettazione di livelli di violenza che mai prima la storia aveva concepito, soprattutto sul terreno della distinzione tra combattenti e non combattenti. Questa è un'altra delle tematiche che prende in esame. L'orrore della guerra totale è che non si distingue più tra combattenti e non combattenti. È il segno che c'è stato un prolasso della morale e della tecnica. D'altra parte, direbbe una strategia militare, colpire i civili vuol dire colpire intelligentemente l'esercito avversario. È nella logica della guerra che l'indebolimento dell'avversario presupponga la cancellazione di qualunque discrimine morale e la cancellazione della differenza tra combattenti e non combattenti. Indebolire il fronte interno vuol dire colpire nel cuore l'esercito avversario. Può generare una reazione disperata e folle, ma comporta un allogoramento che, anche se nel caso della Germania, per dire, i terribili bombardamenti che gli alleati hanno fatto sulla Germania, inglesi e tedeschi, sembra che non abbiano avuto questo effetto di deterrenza sulla popolazione, anzi sembra che i civili tedeschi ne abbiano tratto occasione per un incentivo nell'odio anti-alleato, perché gli alleati erano qui, e Goebbels ha utilizzato genialmente questa cosa, perché gli alleati sono quelli che vengono qui a bombardarci. Lasciamo da parte il dettaglio che hanno cominciato loro, ma per i civili tedeschi, anche imbevuti di propaganda e così via, l'idea che questi bombardino col fosforo bianco le città non è certamente un incentivo a combattere il regime nazista. Il regime lavorerà genialmente su questo. Volevo... Sì, esatto. Beh, c'è Sir Arthur Harris, che lo chiamano Mr. Bombing, che teorizza, si chiama Cultural Bombing, la teoria della distruzione a tappeto. Per far capire ai tedeschi come sta funzionando e come funzionerà, radiano solo le loro città e queste città diventano dei giganteschi roghi. Sono i buoni, verrebbe da dire, sono gli stessi buoni, vorrei fugare ogni dubbio, la mia simpatia per il nazismo è scarsissima, ma è indubbio che dopo la guerra non soltanto il problema dei bombardamenti, ma anche il problema del processo di Norimberga, per dirne uno, ha creato non poche questioni morali, non soltanto in ambito germanico, ma anche uno come Hans Kelsen, un giurista austriaco sicuramente lontano da simpatie filo naziste, riflette sul fatto, sulla aporia, sulla contraddizione di una coalizione vincitrice che fa il processo sulla base di principi stabiliti al momento del processo, per capirci. Insomma, si tratta di punire, tra l'altro, di punire un ristretto gruppo dirigente, sollevando e accantonando il problema di quante responsabilità potessero esserci dietro e omettendo anche, diciamolo pure per correttezza e onestà, omettendo anche quanto era stato fatto dagli altri eserciti, a cominciare da quello sovietico per intenderci, ai danni delle popolazioni civili, ma non soltanto i cattivi sovietici, anche i buoni americani. Racconta lui un episodio, io lo chiamo nella postazione del tiro al piccione sul giapponese. In un'isola giapponese, in un'isola del Pacifico, a un certo momento gli americani vincitori scovano un giapponese, di questi che si era rifugiato, si era nascosto per evitare lo vedono, lo contemplano, ne ridono, cominciano a sparargli cercando di colpire. Questo scappa disperatamente, loro continuano a spararlo finché l'ammazzano ridendo. Lui racconta questo episodio perché lo sente raccontare da un veterano in un'aula universitaria nel dopoguerra negli Stati Uniti. Il veterano si domanda: perché ridevamo? Perché sì, perché siamo in questo contesto terrificante. Il giapponese è stato deumanizzato, perché guardate che gli americani non hanno avuto la mano leggera sui loro avversari. I marines americani nel Pacifico toglievano i denti ai prigionieri giapponesi da vivi, per capirci. Mi dispiace riferire in particolare di questo tipo, perché il giapponese è stato deumanizzato, è un muso giallo. Un colpo al cerchio e un colpo alla botte, l'esatto contrario di quanto avviene in Unione Sovietica, per esempio, laddove in alcuni discorsi di Stalin può sembrare strano, in alcuni discorsi di Stalin e in alcuni documenti c'è il richiamo esplicito di Stalin a distinguere tra tedeschi e nazisti, cioè a distinguere tra l'ideologia, i comportamenti e il progetto politico di sterminio e i soldati regolarmente arruolati nella Wehrmacht. Come dire che spesso le sorprese non mancano in un senso o nell'altro. Noi siamo abituati a fare di quel campo un unico blocco progressivo e buono, sta lottando per salvarci dalla dittatura nazista. Succedono cose terribili. Potremmo raccontare dell'episodio degli stupri ad opera delle truppe francesi in Italia. Io sono figlio di una donna che ha rischiato e si è difesa egregiamente a colpi di ombrello. Era un soldato marocchino ubriaco che combatteva con i francesi. Qui lui racconta l'episodio di un gruppo di civili italiani che va a lamentarsi con l'ufficiale francese perché i soldati di colore stanno stuprando delle donne. E l'ufficiale risponde: siamo in guerra, primo; secondo, sono le stesse cose che facevano gli italiani in Libia, in Etiopia, in Abissinia, che volete? Il problema qui non è chi è più cattivo di chi, il problema è che è interrogarsi sulle ragioni che hanno sollevato la violenza nel Novecento a livelli intollerabili. Da quello che lui dice, e non è l'unico, la violenza, questo elevamento parossistico della violenza nasce da una modifica complessiva delle relazioni sociali, del modello produttivo, del tono stesso della società, che è una società che si è spersonalizzata, si è fatta più cattiva, si è fatta indifferente, qualcuno lo chiama methodical indifference, cioè ci importa poco, e siamo disposti tutti, ecco per la sua autocritica, siamo disposti tutti a entrare in quelle parti che mai penseremmo di poter rappresentare. I famosi uomini comuni, i famosi padri di famiglia di cui parla Hannah Arendt, chi sono gli sterminatori? Sono padri di famiglia, sono impiegati delle poste, sono insegnanti. Il battaglione 101, c'è un libro di Robert Browning molto bello, il battaglione 101, sono un battaglione di hamburghesi di mezza età reclutati nelle scuole, i riservisti, insegnanti, impiegati delle poste, del catasto, gente normalissima. Qualcuno deve fare ricorso all'alcol, e l'alcol nelle guerre andrebbe scritta una storia a parte. Altri lo fanno per abitudine, perché viene loro imposto, perché si tratta soltanto di premere il grilletto lì. Insomma, che cosa è accaduto antropologicamente nel Novecento da trasformare la guerra? È accaduto che si è trasformata la società, che gli stessi ritmi e la qualità delle relazioni umane e sociali, già di per sé alienanti, spersonalizzanti e abbastanza feroci, in guerra lavorano al loro parossismo e lì dimostrano di che cosa sono capaci. Per lui questo esito è tutto interno al nostro modo di costruire la civiltà degli ultimi secoli. Il giudizio non è confortante. Io avrei delle altre tematiche da segnalare semplicemente. Per esempio, ecco, stiamo parlando della guerra nei termini crudi nei quali la conosciamo, però questa guerra formidabile evocatore dell'animo umano, di cui parla Céline, presenta però altri aspetti, cioè riesce a produrre comportamenti e forme di relazioni di solidarietà che nella vita normale noi neanche immagineremmo. Lui nomina il caso classico del cameratismo, sul quale molti studi sono stati fatti recentemente, per esempio da Paul Fassel, quello che ha scritto La grande guerra e la memoria moderna, un libro bellissimo, in cui riflette sull'esperienza della guerra nei letterati inglesi, nei poeti inglesi, Sassoon, Wilfred Owen e così via. Il cameratismo, che è un'esperienza straordinaria in un contesto di distruzione pura e di egoismo trasportato ai massimi livelli, il cameratismo è una specie di oasi di riconoscimento cementata, fatta solidificare dalla comune esposizione al pericolo. Lui la chiama comunità e fraternità d'esposizione al pericolo, qualcosa di diverso dall'amicizia, qualcosa che crea una situazione di fusione del piccolo gruppo, soprattutto la piccola squadra, il plotone, che non si trova in nessun'altra esperienza umana. Il veterano sa che cos'è il cameratismo, è quella situazione per la quale, di fronte alla morte, al rischio estremo, a ciò che ne va della vita, sconosciuti, nella cinematografia troviamo anche questo, spesso tra di loro in assoluto conflitto, nella vita civile scoprono improvvisamente di avere una destinazione comune e una necessità di tutela reciproca tra sconosciuti. È una cosa molto bella. Anche la cinematografia, mi viene in mente quel bellissimo film che è La sottile linea rossa di Terrence Malick, un film straordinario, una grande opera filosofica sulla guerra, in cui il cameratismo assurge alle sue vette più alte. Tutta la letteratura di guerra racconta di questa strana e paradossale unione di cuori e di spiriti, la cui ragione sta nel fatto che siamo di fronte all'esperienza estrema dell'umano, quella della morte. E lui tratta questa cosa con grande amore, con grande trasporto umano. Una delle zone della guerra nelle quali succede dell'altro, come in una delle tante citazioni di Guerra e Pace, racconta del rapporto tra Pierre Bezukhov e Karatiev, il rapporto tra il semplice e il padrone, a proposito della cura. Che cos'è la cura? È una sorta di attitudine alla protezione e alla cura, non verso qualcuno in particolare, ma verso l'altro in generale, che la guerra fa fiorire inopinatamente in un contesto che di tutt'altro parlerebbe. Qui evoca le figure degli infermieri, dei medici di guerra, dei portaferiti, gente che rischia la pelle tanto quanto i combattenti per salvare autentici sconosciuti, anche quando questi sconosciuti appartengono al fronte avversario. C'è un libro di Stephen Crane, Il segno rotto del coraggio, che racconta questo. C'è tutta una letteratura nella quale questa guerra, che noi continuiamo a condannare per ovvie ragioni che non siamo a dire, in realtà è un'esperienza talmente estrema, talmente liminare, da evocare il peggio del peggio e evocare il meglio del meglio, la dimensione angelica dell'uomo, la dimensione bestiale. Scusami, se mi sono scavalcato, scusami, mi dispiace. Scusate la prolissità, ma in realtà nel libro c'è molto di più. Leggeremo, leggeremo. Mi vengono in mente altre cose, ma insomma, le piccole dosi sono il segreto della vita. Sembrerebbe quasi che la guerra abbia una funzione pedagogica, quasi come la tragedia, sì. No? La guerra, infatti, all'acme, sì. Sì. Nel bene come nel male, sì. Una funzione pedagogica, perché ci insegna a capire quanto c'è qui dentro che noi non sappiamo. Una specie di catarsi, esattamente, di rivelazione sconcertante di sé a se stessi, e dall'altra l'orrore di un Mengele che cuce due gemellini ebrei per vedere che cosa succede, come i bambini scolora le pupille, fa iniezioni endovene di trielina. Mi fermo perché cadiamo nella pornografia, ma si sappia che c'è e c'è anche di peggio. Che poi sono stati protetti anche da signora, lei evoca un ambito nel quale non voglio entrare. Sì, perché scappano, grazie, nel Red Line, Merano, Bolzano, Genova, ma lì è già in corso la guerra fredda. Erano i nazisti i nemici, adesso sono i russi. E allora, se diamo una mano ai vari pricche a salvarsi. Potrei... Il famoso armadio della vergogna. L'armadio della vergogna, italianissimo, l'armadio della vergogna. È di oggi la notizia, scusatemi, non c'entra molto, ma di una testimonianza di un poliziotto italiano sulla vicenda Moro, a proposito dell'armadio della vergogna. Il sospetto che già c'era, che quei due motociclisti non fossero due Valentino Rossi e Bia Baggi, c'era già, qualcuno deve averla, a proposito di armadio della vergogna, ma insomma. Comunque, azione di guerra. Più che una domanda, sì. Se posso fare una riflessione. Sì, certo. Cioè, voglio dire, la cosa tragica, ed è molto interessante quello che ci ha raccontato oggi il relatore, e credo che sia anche molto interessante questo libro, la riflessione tragica che viene fatto di fare è questa, cioè che Cioè, non è che dagli albori dell'umanità, tutti sappiamo che la storia dell'uomo è costellata da massacri, mi pare Hegel ha detto che la storia dell'uomo gronda sangue, eccetera. Però c'è un continuo peggioramento della situazione, perché dico, se noi andiamo alle guerre romane, andiamo alla Grecia, eccetera, noi vediamo che gli eccessi che ci sono, popolazioni passate a fil di spada, eccetera, ci sono, però sono, non sono il risultato di un calcolo a tavolino, molto spesso sono eccessi dettati dal furore della battaglia, che hanno a volte anche degli imprevedibili. Invece quello che colpisce è il continuo peggioramento, a parte il male assoluto del nazismo, delle stragi naziste. C'è quel bellissimo libro Humanity, che lei conoscerà certamente, dove ci si racconta che la scelta di bombardare le città, di uccidere i civili, le donne e i bambini, non è soltanto frutto di questa deterrenza, ma proprio frutto di un calcolo a tavolino dei generali, sì. Non solo, ma dico, Hiroshima e Nagasaki, sì. c'era stato delle persone molto autorevoli, e tra questi anche gli scienziati che hanno contribuito a costruire la bomba atomica, che non volevano che si bombardassero le città, che dicevano, diciamo ai giapponesi, dateci un'isola disabitata e noi vi dimostriamo il potere della bomba atomica. Oppenheimer, e i generali non l'hanno voluto, i generali hanno detto no, hanno voluto, e non gli è bastato bombardarne una di città, ma per vedere l'effetto, l'efficacia, cioè ne hanno volute bombardare una. Faccio un'ultima considerazione, se posso, non per aggiungere nulla a quello che è già stato detto, interessante. Io è una recente lettura che mi ha colpito proprio il riferimento del tema di questa sera. Una recente lettura, ho letto un bel libro di Luciano Canfora su Giulio Cesare. A un certo punto, durante le guerre galliche, sono stati sterminati dei civili, anzi delle persone che si erano arrese ai romani, e che Cesare ha dato ordine di uccidere. Nel senato romano è successo un putiferio, anche strumentalizzato, perché c'erano gli avversari di Cesare che naturalmente approfittavano di questa vicenda per attaccare, ma è successo un putiferio nel senato romano, ha detto, ma come? State ammazzate donne, bambini, gente che si era arresa, dico, nessuno ha detto niente quando a Dresda hanno bruciato migliaia e migliaia di persone, quando a Hiroshima, cioè voglio dire, andiamo di peggio in peggio, e speriamo che il futuro non ci riservi un ulteriore peggio. Mentre lei parlava mi veniva in mente, vi ricordate le immagini del bombardamento di Baghdad nel 91? La fantasmagoria dei proiettili, dei traccianti che partono, e noi incantati a guardare questa cosa che sembra un gioco, un videogioco. Dietro questa seducente fantasmagoria c'è la morte, le morti sono le morti peggiori, la guerra da una parte viene occultata, mediaticamente cancellata, dall'altra viene spacciata come chirurgica, come intelligente. La vicenda dei Balcani, a proposito di bombardamenti chirurgici, ma anche a Baghdad, in Afghanistan, questi ammazzano la gente che va ai matrimoni perché il drone ha scambiato le signore. Li ha presi per talebani. Per talebani, insomma. Cioè, c'è un progressivo abbassarsi del riconoscimento dell'umanità dell'altro. Anche del valore dei valori. Sicuramente, ma c'è anche l'esasperarsi della visione strumentale della realtà. Posso fare quello che mi serve. Allora, se una volta c'era la mitigazione, la Chiesa proponeva la tregua di Dio nel Medioevo, oppure nel Settecento c'è la guerra in dentella, la guerra in merletti, ci si affronta, ci si spara, appena si vede che qualcuno cede, la battaglia è finita, limitiamo i danni, è l'illuminismo che mitiga Beccaria e dintorni, la guerra, la violenza. Dalla rivoluzione francese in poi parte un percorso differente, certo non siamo ai livelli della Seconda Guerra Mondiale, ma parte l'idea che ciò che è in ballo viene prima di tutto. Ma nel Novecento viene qualcosa di più, si sfonda addirittura la soglia della finalità politica, e la guerra diventa uno strumento di pura degenerazione dell'uso dello strumento. La bomba atomica è il caso a Milai, marzo 68, William Curley si chiama, Nixon dopo un giorno di galera lo manda a casa, lo grazia. Questi arrivano in un villaggio vietnamita, ammazzano 200-300 donne, non mi ricordo, ammazzano maiali, ammazzano bambini. C'è uno solo di questo plotone, è una compagnia, la compagnia Charlie, c'è uno solo, è un elicotterista che alla fine sbotta, esplode, chiama i giornalisti e racconta tutto. Gli fanno il processo, l'opinione pubblica americana si spacca e alla fine Nixon approfitta, lo condannano, soltanto lui, non il capitano, non il comandante, e lo manda libero. Il libro è una presa d'atto, ecco, questo mi premeva a dire, il libro è interessante in sé, ma la prefazione è, secondo me, per i miei gusti, ancora più interessante, perché Gray sta facendo i conti non soltanto con la sua esperienza della Seconda Guerra Mondiale, ma sta facendo i conti con l'esperienza che gli americani stanno facendo dal 64 fino al 75, la sporca guerra in Vietnam, dove si è capito che ne stanno facendo di tutti i colori. Lui è un americano inquieto, è un liberal probabilmente, e si rende conto che il paese delle guerre democratiche questa volta sta davvero esagerando, e la rievocazione della Seconda Guerra Mondiale gli serve per fare i conti anche con la cultura d'appartenenza, con questa America che è piena di ideali progressivi, la Big Society di Johnson, ma sta conducendo azioni di una efferatezza assoluta. Sì, ci sono i comunisti, è vero, eccetera, eccetera, ma lì si sta facendo qualcosa che davvero ha sfondato il limite. Ecco, la storia dell'ultimo secolo è la storia dello sfondamento di un limite, sul quale ormai hanno da ridire legittimamente i movimenti ecologisti, ma una parola, diciamo così, santa la sta dicendo la Chiesa, l'ha detta la Chiesa, quando, una volta eliminato lo storico nemico all'est, scopre, ed era ora, che con il signor capitalismo e con le sue branche operative bisogna fare i conti, perché è una bestia molto più dura di quella comunista. C'era il signore che voleva fare, aveva alzato. Siamo qui, eh? Ringrazio i nostri ospiti, professor Masucci, che è stato veramente interessante ascoltare, una fonte anche di bibliografia, una conferenza filosofica, direi, per certi versi anche, e anche un corredo di filmografia che non mi aspettavo. La ringrazio, grazie, per lei, tante suggestioni e tanti spunti, grazie, su cui riflettere. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. Grazie.